97. Ravioli. Ricotta grammi 300, parmigiano grattato grammi 50, uova numero 2, bietola cotta, quanta ne sta in un pugno, odore di noce moscata e spezie, sale quanto basta, la ricotta passatela e se è sierosa strezzatela prima in un tovagliuolo. La bietola nettatela dai gambi, lessatela senz'acqua, strizzatela bene e tritatela fine con la lunetta. Fate un impasto di tutto, prendete il composto a cucchiaiate e mettendolo sopra della farina che avrete distesa sulla spianatoia, avvolgetelo bene dandogli la forma tonda e bislunga delle crocchette. Con questa dose farete circa 2 dozzine di ravioli. Per cuocerli, gettateli in acqua non salata, che bolla forte, e levateli con la mestola forata perché restino asciutti. Conditeli o col sugo o a cacio e burro e serviteli per minestra o per contorno a un umido di carne. Siccome la cottura ne è sollecita, bastando che assodino, coceteli pochi alla volta, onde non si rompano.